accenderebile. Segno il tempo che passa e l'esperienza che resta. Mi lascio andare la tua mano, compiere l'opera. Una parte di me resta sul tuo corpo. Lo trovo sensuale. Sensuale, sensuale.